Ecco, allora ne approfitto subito per darvi un caloroso benvenuto a questa iniziativa della Biblioteca Provinciale Claudio Augusta, che dall'ottobre del 2014 sta sperimentando una nuova fase della sua attività, girando un po' per la città. Siamo in questa sede bellissima del Liceo Classico Carducci di Bolzano, che non è neanche tanto distante dalla nostra sede abituale, che è Via Mendola, appunto, Via Mendola 5. E così, questa fase di, diciamo, di migrazione, no? A cui ci sottoponiamo ogni settimana, ha degli aspetti positivi e anche negativi, ma questa volta vorrei soffermarmi più sugli aspetti positivi, perché ci permette così di far conoscere le attività, e in particolare ad una di queste a cui teniamo in particolar modo, che è quella di promuovere le tesi di laurea. La raccolta delle tesi di laurea è iniziata sin da subito, dai primi anni di attività della biblioteca. Ormai sono più di 10 anni che vengono presentate circa una quarantina di tesi alla biblioteca, vengono consegnate. In dicembre poi facciamo un premio, organizziamo una festa con un riconoscimento degli studenti e delle studentesse che si sono impegnati in una ricerca, e che così è una ricerca che riguarda il territorio nei suoi vari aspetti. Andrea Bernard è uno dei candidati del 2014, insieme alla collega Federica Lorenzini, sì, dove hanno presentato Lorenzi, mi viene in mente un altro cognome, scusate, avevano presentato una tesi, e Bolzano, città in connessione, che poi è diventata anche una pubblicazione pregevole. Ci sembrava molto interessante poterla proporre anche in termini di conferenza, perché purtroppo quando facciamo il premio abbiamo poco tempo e 40 tesi da presentare praticamente sfuggono, ecco, si riesce a malapena a dire il titolo e il settore in cui si è operata la ricerca. Però ci sembrava carino, interessante invece dare un'occasione ai giovani per presentare il proprio lavoro, e a noi anche di conoscerlo in maniera più approfondita, anche attraverso un'iniziativa come questa. E tra l'altro in questi giorni siamo ripartiti con questo concorso, lo chiamiamo così, concorso, per recuperare, acquisire nuove tesi, quindi se conoscete qualcuno che si sta laureando o si è laureato e ha così trattato un tema di interesse locale, può presentare il lavoro alla biblioteca. Ecco, sono particolarmente contenta di avere con noi Andrea Bernard, il suo lavoro è molto interessante, abbiamo già visto che i numeri di questo libro che abbiamo acquistato sono via, insomma, sono tutti in prestito, stasera ne abbiamo recuperato uno, e quindi vuol dire che c'è un interesse, tanto più che è un tema sempre attuale, sempre caldo, no? Mi sembra di capire. Penso e spero di sì. Come far evolvere questa, esatto, città nelle condizioni limitate in cui si trova. Vi auguro una piacevole serata e rinnovo l'invito a venire a trovarci anche in biblioteca, dove operiamo quotidianamente, ecco, dal lunedì al sabato. Grazie e in bocca al lupo. Anzi, scusate, c'è un altro ospite qua con noi, che è l'architetto Carlo Azzolini. Perché facciamo così? Noi abbiamo sempre così piacere anche di avere un padrino o una madrina che accompagni lo studente, la studentessa, che sia appunto un professionista nel settore in cui la persona si sta affacciando professionalmente. Quindi ringrazio anche l'architetto Azzolini che si presta a questa nostra iniziativa. Buona serata. Siete proprio da solo sul palco, ok. Va bene. Allora, buonasera a tutti. Come ha detto già la direttrice, sono Andrea Bernard. Io porto i saluti di Federica, perché purtroppo per impegni lavorativi non è riuscita a venire qui oggi, perché lavora fuori città e quindi non ce l'ha fatta. Ringrazio anche l'architetto Azzolini per la presenza. Spero che poi ci possa essere anche una sorta di confronto una volta che avvenuta la presentazione. Come ha detto la direttrice, questo è un tema molto attuale, non per niente mezz'ora fa, mi sembra, comunque adesso è stato presentato anche il master plan della città di Bolzano, se non sbaglio. Ci troviamo quindi di fronte alla presentazione di due lavori uno molto più, forse più serio come Massadani Bolzano. Il mio è, il nostro lavoro invece è più un lavoro per una visione anche utopistica della nostra città. Essendo un lavoro di tesi, ci siamo potuti anche spingere per guardare oltre, per andare oltre quello che è il lavoro presente ed effettivo sulla città. Quindi ecco, la premessa è quella di che il nostro progetto, la nostra strategia urbana vuole essere una strategia di visione futura, soprattutto di come la città può essere vista, e speriamo che possa essere vista, una delle possibilità anche. Il titolo è Città in connessione, rigenerazione urbana nella città di Bolzano, incubatori culturali per un nuovo scenario identitario. L'ultima parola è molto importante per noi, scenario identitario, tanto che è stato il tema poi che abbiamo affrontato durante il discorso di tesi. Quindi la visione per l'identità di una città che chiaramente ha delle forti potenzialità, ma necessita secondo noi ancora di un percorso che la renda ancora più competitiva. Ecco perché abbiamo scelto di studiare Bolzano e vedere cosa era possibile proporre per la nostra città, anche perché studiando a Ferrara, siamo laureati a Ferrara nel 2012, questa tesi, ci siamo sempre confrontati con colleghi provenienti da altre città d'Italia, i quali avevano e hanno una visione di Bolzano un po' distorta, legata anche ad alcuni stereotipi che purtroppo non riusciamo a scrollarci di dosso, ma che secondo noi sicuramente con alcuni interventi mirati è possibile distogliere l'attenzione da questi stereotipi che purtroppo sono ancora molto presenti. Per dare l'idea del lavoro anche visionario che avevamo, anche la veste grafica della nostra tesi è un po' diversa dal solito. Abbiamo voluto graficizzarla come se fosse una guida turistica. Ci siamo ispirati alla guida della Lonely Planet per la graficizzazione. Ovviamente il formato è molto più piccolo, quello originale, se volevamo inserire tutte le informazioni che avevamo diventava poi un po' difficile utilizzare il formato uguale, però la grafica diventa quella, proprio perché l'identità di una città, di un luogo, è data sicuramente per un turista per il turista dalla prima impressione, sicuramente dalle informazioni che vengono date dalle guide o dalle informazioni che si hanno da internet adesso soprattutto. E quindi già questo rende chiaro quello che è stato il nostro lavoro. La tesi si suddivide, anzi poi è qui e ce ne sono anche due copie, quindi per chi volesse poi consultarla, anche perché c'è molto più lavoro rispetto a quello che presenterò oggi. La tesi si divide in tre parti principali: una parte di studio morfologico soprattutto della città, quindi il perché della sua forma e di come si è sviluppata la città fino ad oggi, dove cercherò di essere anche il più veloce possibile, visto che comunque credo che tutti proveniamo da Bolzano, quindi conosciamo la nostra città, anche se con questo studio noi stessi abbiamo voluto approfondire alcuni temi per capire se le riflessioni riguardo ad alcune problematiche erano reali e quindi anche scientificamente probabili, o se erano soltanto delle riflessioni tra amici e quindi tra gente che l'abita semplicemente. La seconda parte invece è legata a una proposta di strategia urbana, quindi un discorso di strategia legato proprio di urbanistica, di progettazione urbana, anche teorica, legata alla città creativa. La città creativa che è stata la nostra chiave di interpretazione per il nuovo scenario identitario di Bolzano, spiegherò poi perché, e quindi poi una terza parte legata a una fase più progettuale, così da riuscire a trattare diversi temi passare dall'urbanistico al progetto architettonico vero e proprio, quindi il progetto più tecnico. Anche su quello cercherò di essere più veloce, proprio perché i progetti sono solo delle nostre proposte, ne abbiamo fatti 4, anche abbastanza grandi, e quindi nessuno voleva essere di preciso studio architettonico tecnico. Quindi, partendo da una prima fase di studio, possiamo dire che la morfologia di Bolzano è specifica. Questo perché Bolzano, in quanto nodo culturale, nodo economico, nodo ambientale, si presenta con grandi potenzialità proprio per la sua posizione geografica innanzitutto, e quindi il suo... mi dispiace, forse non si capirà tutto quanto, perché vedo che poi ho visto che la risoluzione del video è buona, però non bastante per vedere tutte quelle che sono state le elaborazioni grafiche, che purtroppo non sono riuscito a modificare con i vari programmi di grafica perché non ho avuto il tempo. Comunque spero che poi, se ci sono domande, fermatemi anche se non si capisce quello che intendo. Quindi la sua posizione geografica è molto importante per l'Italia, perché non è una città di confine marginale, ma è una città importante come confine di passaggio tra l'Italia e il resto d'Europa, perché appunto non confina soltanto con l'Austria, ma confina poi col passaggio al resto d'Europa, e da Bolzano passano quindi le principali scambi economici con il paese. È nodo culturale perché all'interno della città, così come della regione, convivono i tre gruppi linguistici, tedeschi, italiani e ladini. Ambientale perché da sempre la città si è posta è sempre nei primi posti in classifica come l'ambiente, per l'ecosistema, quindi una città che guarda molto all'ambiente e alla sua salvaguardia. Come si è visto e come si può vedere anche qua dall'immagine, Bolzano presenta morfologicamente dei limiti molto chiari. Infatti dalla sua nascita, partendo dal centro storico, si è sviluppata facendo particolare attenzione a quelli che sono i margini e i confini naturali, qua il fiume, in particolare il fiume Talvera per il primo sviluppo storico, e poi il fiume Isarco, e con le montagne che ne hanno delimitato sicuramente i confini. Vediamo quindi i netti confini tra fiumi e montagne. Il secondo confine è il confine agricolo, che delimita chiaramente quella che è la forma della città. Questo soprattutto è dovuto non tanto alla presenza del verde agricolo, che come abbiamo visto, come vediamo nelle città della pianura padana, essendoci comunque molto, molto terreno agricolo, le città non hanno confini precisi, c'è uno sprawl, il termine tecnico è sprawl, quindi un effetto urbano che spesso non permette di delineare esattamente il confine tra città vera e campagna. Invece da noi, anche dovuto al fatto di una buona amministrazione che fino adesso si è susseguita nella città, e quindi partendo anche anche dai primi del Novecento, l'amministrazione è sempre stata attenta e quindi ha sempre cercato di programmare con dei piani strategici e urbanistici molto, molto, molto chiari quello che doveva essere il confine e il rispetto tra città e territorio agricolo, in quanto territorio agricolo è molto importante per quello che è il sostentamento economico della regione. Ecco dunque che proprio da questo schema si può vedere come anche contemplando quelli che sono nuovi quartieri di espansione, Firmina e Casanova, e questo si può vedere in modo molto chiaro dalla foto che abbiamo fatto da Castel Firmiano, come il limite sia molto molto chiaro e delineato. Per studiare la città in maniera ancora più specifica, abbiamo cercato in maniera molto personale di suddividere Bolzano in quattro parti, in quattro sottocittà. Abbiamo la città compatta, la città espansa, la città non percepita e la città generica. Nomi dati anche un po' provocatoriamente secondo alcune riflessioni che da sempre sono in atto sulla nostra città. Per studiare queste parti di città abbiamo poi scelto dei layer di analisi, ne abbiamo scelti quattro: le tracce, quindi la densità della forma urbana, la distribuzione, l'ambiente e le vocazioni, che presi singolarmente aiutano a creare un bagaglio per comprendere quello che è le varie specificità di queste zone, di queste sottocittà, possiamo chiamarle. Velocemente, la città compatta è la parte che comprende il centro storico. La città espansa è la città a vocazione più residenziale, quindi quella oltre il Talbera e a nord del fiume Isarco, comprendente quei quartieri a vocazione appunto residenziale come il Gries, Europa, Novacella, Don Bosco, i nuovi quartieri di espansione. Una città non percepita, questa è forse la provocazione più grande che abbiamo fatto, ovvero quella città dove spesso non si prende in considerazione quando parliamo di Bolzano quando pensiamo a Bolzano. Spesso e volentieri oltre Isarco è vista come qualcosa al di là del fiume, al di là dell'autostrada, al di là dell'Arginale. E quindi è quella città che è meno percepita rispetto alle altre zone, e la città generica, che è la vecchia zona industriale, adesso si sta trasformando, quindi dall'industria pesante si sta passando a commercio, artigianato e quindi settore terziario. Attraverso lo studio con i nostri layer di analisi si è potuto vedere come Bolzano sia ancora una città monocentrica, dove il cuore vero della città è il centro storico. E infatti, attraverso il layer di analisi delle vocazioni, vediamo come rispetto alle altre parti della città sia molto più attiva. Vocazioni sono quelle emergenze che richiamano il turismo, ma richiamano anche i cittadini stessi, quindi quegli eventi che possono riguardare le arti performative, quindi gli spettacoli, cose più legate alla cittadinanza, o anche quelle attrazioni turistiche come musei, e giustamente il centro storico ha più richiamo rispetto al centro residenziale di espansione. Attraverso il layer di analisi della distribuzione invece abbiamo visto come sia chiaro il distacco di Oltrisarco e della zona industriale dal resto della città. Questo perché, oltre alla presenza del fiume Isarco, Oltrisarco e la zona industriale sono separati dal viadotto autostradale, dall'Arginale e dal tracciato ferroviario. Questo sicuramente non aiuta. Ecco perché la città percepita non è soltanto per la vocazione residenziale che è altro Isarco, ma è anche proprio dovuta a un fattore fisico urbano. Città in trasformazione. Abbiamo visto, studiando i piani che il comune di Bolzano ha adottato, quali appunto il master plan e il PUM in particolare, il piano della mobilità, piani che si affiancano al PUC, il piano urbanistico comunale, la città comunque sia in continua trasformazione anche all'interno di queste zone meno percepite. Meno percepite non intendo soltanto il Trisarco, ma anche la zona residenziale, quindi la zona di Novacella, Europa, Don Bosco, eccetera. Questo però, grazie alle trasformazioni previste all'interno dei vari piani, della mobilità, il master plan, sicuramente ci hanno permesso di fare delle considerazioni molto interessanti e trasformazioni che abbiamo preso in considerazione per questa nostra visione futura della città, che sicuramente avverranno, sono trasformazioni a lungo termine, ma che abbiamo voluto già prendere in considerazione perché è giusto secondo noi che la città guardi più al futuro che al presente. Per la viabilità le trasformazioni più interessanti sono la realizzazione delle due linee, la linea Caldaro-Bolzano e la linea metropolitana di superficie, la linea Caldaro-Bolzano e la linea Casanova stazione, che ancora quella è un po' in previsione, non è ancora chiara, ma la linea Caldaro-Bolzano è già in previsione, è già stato avanzato. In più, oltre all'areale ferroviario, che comunque si concentra sempre sulla zona centrale del centro storico, abbiamo altre trasformazioni che interessano la zona industriale, quale la costruzione del polo tecnologico, che avverrà dall'anno prossimo, sì, e la trasformazione della zona a ridosso del fiume, quindi di affaccio sul fiume, con l'ampliamento del centro commerciale. Adesso c'è stata la costruzione già del ponte, nel 2012 era ancora non era ancora chiaro. Ma la trasformazione più forte secondo noi è la previsione di spostare il viadotto autostradale, di toglierlo o comunque di togliere questo impedimento cittadino, che vediamo anche dalla fotografia come sia veramente una grande frattura all'interno della città. Questo, sommato all'arginale, sicuramente non aiuta alla comprensione di questa parte di città. Nella previsione del PUM, del Masterplan, c'è l'idea di togliere questo tratto autostradale e di spostarlo sotto la montagna e l'interramento dell'arginale, quindi sicuramente un grande valore prenderebbe la sponda sud del fiume Isarco. Ecco dunque le varie opportunità che ci sono poste: il fatto di avere un nuovo affaccio sul fiume, il fatto che la zona produttiva, dove l'industria pesante andrà ormai a sparire, diventa una zona di filtro e quindi sempre più vivibile, l'estensione dell'effetto città, quindi comprendere tutte queste zone meno comprese nell'effetto città, e l'estensione della città percepita, quindi la possibilità di andare oltre e non vedere, quando si pensa a Bolzano andiamo in centro, quando si dice andiamo in città, per dire quando siamo in centro, la città è qualcosa di più. Ormai c'è l'espansione, ormai è caratteristico del nostro linguaggio andare in città, andare in centro, però sarebbe bello che proprio nella mente delle persone ci sia un cambio. Ovviamente queste zone non sono zone morte, quindi il nostro studio è andato anche nel capire quali sono le potenzialità all'interno delle zone, della città espansa, la città non percepita, la città generica, quali sono le sue potenzialità, e abbiamo scelto di studiare la città attiva, quindi quelle vocazioni pubbliche come commerciale, culturale, sportivo, che rendono quelle zone attive comunque, il sistema dei parchi, comprendendo lo studio dei parchi anche potenziali all'interno di Bolzano, parchi che sono abbandonati o che presentano una bassa funzionalità ricreativa, o spazi interstiziali, quindi di spazi liberi che non vengono utilizzati, i giovani, quindi abbiamo fatto uno studio di, prendendo tutte le ricerche che erano già state fatte dal comune, quindi le zone con maggior affluenza dei giovani, le zone della città dove vivono maggiormente i giovani, comprendendo anche quelle che sono le loro zone di utilizzo, quindi la scuola, le strutture culturali, le strutture sportive. E ultimo ma non meno importante, anzi per me è stato molto importante questo studio, i vuoti urbani, capire quelli che sono i vuoti urbani all'interno di una città che ovviamente non può espandersi all'infinito, per quello che avevo già accennato e già detto, ma sicuramente il vuoto urbano diventa una grande potenzialità per la città, quindi gli spazi di riuso, gli spazi con una bassa funzionalità, gli svuotamenti, i parchi abbandonati, diventano tutti quanti interessanti spazi di riutilizzo. Passiamo adesso quindi alla seconda fase della tesi, dopo questo studio che abbiamo fatto, ovvero una possibile strategia urbana per riconsiderare e per mettere in connessione tutta quanta la città di Bolzano. Allora, Bolzano è una città che da sempre è riuscita a prendere le proprie potenzialità, a fare le sue e a creare eventi anche molto interessanti dal punto di vista nazionale ed europeo. Ovviamente appunto abbiamo il mercatino di Natale, che è di grandissimo richiamo. Ultimamente è stata la sua vocazione appunto ad essere al centro delle montagne, delle Dolomiti. Anche questo aiuta sicuramente a richiamare un turismo internazionale, la presenza di vari castelli nella zona, la presenza del, adesso ultimamente la costruzione del Museo d'Arte Contemporanea ha permesso appunto di guardare e di fare sue le potenzialità della città. Ma queste potenzialità bastano? Riescono a dare una vera identità alla città? Secondo noi no, proprio perché sono potenzialità che l'hanno resa stereotipata. Parlo soprattutto per il mercatino di Natale, che non vuole essere assolutamente un atteggiamento critico nei suoi confronti, anzi io sono pro mercatino, è giusto che ci sia, porta economia, però forse non siamo solo questo. Ecco dunque che la nostra strategia prevede una strategia di scatter culturale, l'abbiamo chiamato. Lo scatter è una distribuzione nella fisica delle particelle, e quindi lo scatter culturale, ovvero una distribuzione di incubatori culturali all'interno della città, in maniera tale da prendere in considerazione parti, chiamiamole morte della città, parti non percepite, e renderle attrattive sia dal punto di vista urbano ma anche competitivo ed economico. Ecco perché dunque la città creativa. Noi siamo dell'idea che Bolzano può puntare sul diventare città creativa, ovvero quella parte dell'economia che non richiama altre economie, quindi non è un potenziamento della parte creativa culturale della città per richiamare altre economie, come è stato fino adesso. Quindi il fatto che una città proponesse diversi eventi culturali, mostre interessanti, ha sempre richiamato altre industrie, aziende, basti pensare alle grandi città come Milano, ma la nostra idea è quella della creazione di luoghi e di incubatori che generino loro stessi nuove economie. Nuove economie legate comunque alla creatività. Si può pensare alla moda, al design, a tutti quei settori nuovi e contemporanei, che possono generare attrattività, economia e rivitalizzazione urbana. Quindi l'incubatore culturale è sicuramente, anche grazie ai grandi esempi europei e internazionali che ci sono, dal Guggenheim al Museo d'Arte Moderna a Barcellona, che riaccendono parti spente e morte della città, ma generano anche nuove economie e quindi nuovi posti di lavoro e quindi nuova vitalità urbana. Ecco perché secondo noi è importante che una città pensi a tutti quei piccoli interventi, ma pensi anche e soprattutto a quegli interventi che possano essere forti, di grande richiamo. L'esempio del Guggenheim è ovviamente un esempio molto grande. Guggenheim è stato a Bilbao, era stato fatto in una zona, in una ex zona industriale completamente degradata, dove però pian piano con la nascita del museo aveva incominciato a sviluppare, oltre all'economia, anche nell'intorno tutti degli interventi di riqualificazione urbana che nascono ovviamente dalla presenza di questo museo. E quindi i negozietti incominciavano a nascere nell'intorno del museo, le strade e quindi le infrastrutture venivano migliorate, e il verde urbano la stessa cosa. Nel piccolo, anche a Bolzano, secondo noi si può fare e si deve cercare di fare. Quindi attrattività, economia e rivitalizzazione urbana, per far sì che Quando noi chiediamo ai nostri compagni cosa pensano della città di Bolzano, ci sentivamo dire: ah, ma Bolzano a volte la confondono con Trento, anche forse, cioè, giustamente, nel senso che non, si pensa, si sa che Bolzano ha una cultura tedesca molto forte, e questo non c'è nessun tipo di polemica in questo, però non siamo soltanto appunto mercatino di Natale, il fatto che provocatoriamente parti politiche intendono dire che l'Alto Adige non è Italia, che sono le cose che fanno poi e che creano la nostra identità ultimamente. Bolzano però appunto non è solo questa, non abbiamo i pinguini per strada come ci siamo sentiti chiedere da siciliani, che ci hanno chiesto: ma voi avete la neve sempre 24 ore su 24 tutto l'anno? No, non è quello. Ci piacerebbe che nel futuro, quando si chiede alle persone cosa pensi di Bolzano, ci siano delle altre, ci sia un'altra idea, si sa che geograficamente dov'è, si sa la sua cultura qual è, la sua tradizione, e non si vuole assolutamente pensare di evitare questa visione, ma cercare di aiutarla con questi interventi e queste strategie urbane che secondo noi possono rivitalizzarla. Insieme ovviamente a quelli che sono già gli interventi che vengono fatti, prima di tutto adesso il parco tecnologico, che sarà sicuramente di grande impatto a livello nazionale e internazionale. Abbiamo pensato quelli che potrebbero essere per la nostra città dei punti di forza, delle potenzialità da portare in alto ancora di più, e ne abbiamo pensati 4, per non esagerare, e 4 in settori molto diversi, anche per un'idea di attrazione di pubblico differente. Una prima idea era quella della Bolzano del Legno, quindi una corrispondenza forse regionale, una rappresentanza regionale di quello che è quindi il nostro territorio, che ha un forte utilizzo del legno, una grande produzione di legno, il 42% della superficie boschiva copre il nostro territorio, e il legno è una grande potenzialità, perché viene utilizzato nell'artigianato, così come però nelle nuove tecnologie. Costruiamo tanto il legno all'interno della nostra regione, ma anche all'esterno, e questo ovviamente deve essere vista come potenzialità, e dobbiamo trovare il modo per renderla davvero attrattiva come idea. La seconda non è un ordine di gerarchico assolutamente, è la Bolzano degli studenti. Bolzano sempre di più sta diventando una città universitaria, c'è una crescita delle iscrizioni, ero rimasto al 2011 perché ci siamo lavorati nel 2012, quindi quelli erano i dati che avevamo a disposizione, però c'è una grande crescita degli iscritti, soprattutto anche fuori sede, e quindi questa deve essere vista come opportunità da non lasciarci sfuggire, perché sarebbe bello che i giovani si formassero qui da noi, per poi anche trovare dei posti di lavoro da noi e creare quindi nuova vitalità alla città. Bolzano della musica, quindi l'arte performativa, in quanto abbiamo scelto la musica, in quanto appunto non ha una differenziazione culturale, quindi italiani e tedeschi, cosa che magari altre attività hanno, che quindi magari già possono provocare alcune problematiche che vanno oltre. La musica sicuramente mette tutti d'accordo, abbiamo grandi eventi, i vari festival internazionali di musica classica, ma anche i festival di jazz dell'Alto Adige, il Transat, quindi musica contemporanea, l'Upload Contest Festival che richiama musicisti da tutto il territorio. Adesso è stato aperto anche che all'Austria, al Trentino, quindi coinvolge l'Euregio. Quindi secondo noi la musica, abbiamo una grande tradizione, abbiamo un buonissimo conservatorio, istituti musicali molto buoni, e la tradizione della musica anche a livello familiare è sempre molto, molto attenta. L'ultima parte l'abbiamo dedicata invece a quella che è l'enogastronomia. È risaputo che siamo i più grandi produttori, tra i più grandi produttori di mele del mondo, è risaputo che abbiamo degli ottimi vini, però questa cosa deve, secondo noi, può essere ancora più calcata, potenziata, e non possiamo lasciarci sfuggire quella che è un'attrazione che sicuramente a livello mondiale, alle fiere internazionali, rappresentiamo sempre con molto successo tutte quelle che sono le nostre produzioni agroalimentari. Ecco dunque che la nostra strategia si è suddivisa poi in tre parti: l'inserimento quindi degli incubatori culturali, quali una casa del legno, la cittadella dello studente, le officine musicali e il distretto enogastronomico. Quindi quattro incubatori, quattro realtà pubbliche, a vocazione pubblica, ma che possono poi anche rispecchiare degli interessi poi privati, che inseriti nei luoghi per ripensare alla riattivazione di tutte le parti della città. La seconda parte invece è la parte di potenziamento del sistema ambientale, che ovviamente non può prescindere dalla costruzione dalla progettazione degli incubatori, quindi un verde che possa diventare un verde programmato, programmabile per eventi, il verde naturale, quindi spontaneo, un verde per il benessere, quindi lo sport, e il verde di arredo, semplicemente come filari di alberi lungo le strade, e il potenziamento delle connessioni per uno sviluppo di una mobilità sostenibile, quindi una maggiore attenzione ai mezzi di trasporto pubblici e alle città e alle biciclette. Notizia di ieri che appunto Bolzano ancora è tra i primi posti, primo e secondo posto, Lega Ambiente mi sembra, là, sì, per l'utilizzo della città della bicicletta. Il 30% della cittadinanza usa la bicicletta. Questi sono ottimi dati, sicuramente a nostro favore. Ecco qua un po' la graficizzazione, adesso non so quanto si vede. La graficizzazione della nostra strategia, quindi questa connessione ideale ma anche fisica, che comprende i diversi incubatori, dalla Casa del Legno al distretto enogastronomico nella zona di Via Resia, alle officine musicali e alla cittadella dello studente ad Oltrisarco, considerando comunque sempre, come potete vedere, lo smantellamento utopico forse del viadotto autostradale, per lasciare spazio quindi a un proseguimento della passeggiata del Talvera e del Lungosarco nella sponda nord. E quindi si vede il potenziamento anche delle connessioni ciclabili e del trasporto pubblico. Ecco dunque il sistema delle reti, dove gli incubatori non possono rimanere isolati con se stessi, ma devono entrare in relazione. Non si capisce niente, allora avvicino per far capire qual è la graficizzazione, forse così si capisce. Quindi la connessione ideale con tutte le altre realtà attive cittadine, quindi appunto il parco tecnologico, il TIS, la fiera, anche quella richiama sempre molto pubblico, e il centro storico. La seconda rete, la rete ecologica, quindi come si può vedere il verde c'è uno sviluppo e un ampliamento del discorso dell'ambiente del verde urbano, considerando anche poi il verde agricolo, e la rete della mobilità appunto messa in connessione con quella già presente. Questo crea una nuova, secondo la nostra idea, può aiutare a creare una nuova visione della città per noi cittadini e per l'esterno, in quanto attrattività degli eventi, attrattività delle proposte culturali ed economiche, ma anche proprio per noi cittadini, per estendere l'effetto che ha per noi adesso il centro storico ed interessarci, anche se non ci abitiamo, ad andare nella zona di Via Resia a Casanova, dove magari adesso andiamo soltanto per qualche evento al Palasport, ma magari sarebbe interessante andare a fare qualcosa nel distretto non gastronomico, che poi vediamo qual è stata la nostra proposta. Non da meno, e non meno importante, è la rete degli eventi. Gli eventi non possono essere presi singolarmente, ma devono essere messi in relazione tra di loro. Qui ancora c'era la candidatura, ad esempio, alla Capitale Europea della Cultura, che non ha funzionato, nel senso non è nato a buon fine, però ad esempio adesso ogni anno il Ministero alla Cultura nomina alcune città italiane come città della cultura, quindi sarebbe bello poterci candidare a quel ruolo, proprio perché Bolzano ne ha le possibilità e la capacità. Bisogna trovare semplicemente il modo e la proposta giusta, cosa che forse con metterci in rete con il nord-est prima che con noi stessi diventava un po' difficile. Passando adesso alla terza fase, poi ho finito, lo giuro, passiamo alle nostre proposte progettuali per gli incubatori. Ovviamente sono proposte a volte anche molto, molto presenti, forse molto forti, ma volevamo che fosse così. Partiamo dalla Casa del Legno. La Casa del Legno è stata pensata appunto nella zona tra via Novacella e via Druso, dove si trova quella zona ex militare, un parco appartenente appunto al demanio militare, ma che è passato all'utilizzo del comune. In quella zona, secondo noi, mancava un parco pubblico. Ecco perché la Casa del Legno vuole essere sì un intervento forte, ma che non faccia perdere la volontà di creare un parco pubblico. Qua adesso unicamente abbiamo anche inserito i cervi, che non ci saranno mai nella città, che però sicuramente possono, ma sicuramente l'idea di un parco per questa zona di città va a favorire gli incontri pubblici, prima di cosa. Secondo, l'inserimento dell'incubatore. L'incubatore è un elemento monolitico sviluppato su 5 piani fuori terra e un piano interrato. I 5 piani fuori terra sono destinati soprattutto a centri di ricerca per il legno, spazi, quindi le tecnologie del legno, il legno in quanto artigianato, e spazi dedicati alle conferenze. Adesso non sto ad elencarvi tutte quante le zone dedicate, ma abbiamo fatto lo studio di tutto quanto, quindi la proposta è stata fatta in toto. Dove però poi la sorpresa avviene, quindi qua potete vedere da questa immagine che abbiamo realizzato come rimane la vocazione a parco pubblico per la maggior parte, e poi dal quale esce e prende spazio questo elemento monolitico che si propone come richiamo, perché altrimenti un parco pubblico così si richiama in alcuni momenti della città, ma poi magari diventa vuoto. Invece questo vuole essere un richiamo continuo in tutte le parti della città. Ecco perché nella parte inferiore, quindi ipogea, quindi sotto il parco pubblico, abbiamo pensato al Museo del Legno, che vada a raccogliere tutte quelle che sono le opere realizzate da molti artisti che abbiamo nella regione, soprattutto artisti della Val Gardena, ma anche nella Val di Fiemme ci sono molti artisti che lavorano in legno, e che possa essere quindi, ecco, l'attrazione poi del turista. Ecco perché anche il turista è richiamato a venire in questa parte di città, non soltanto il cittadino che può trovare un punto di ristoro, un punto di ristoro, o magari, non lo so, il bookshop, un negozio legato sempre al discorso del legno, o un parco pubblico. Il secondo intervento, vicino a Ponte Palermo, nella zona, nella parte sud del fiume Esarco, abbiamo inserito le officine musicali. Le officine musicali sono appunto sono interessanti per noi perché ovviamente ci permetteva di raccogliere quelli che è la realtà, soprattutto anche giovanile, quindi raccogliere tutte le realtà che sono i vari eventi come Upload, tutti quei festival regionali che possono sicuramente richiamare molta gente locale, ma anche fuori dalla regione. Abbiamo voluto fare una proposta molto pop, che fosse quindi di richiamo e che andasse a confrontarsi con il fiume, quindi una struttura anche leggera, sviluppata su due piani, su dei volumi che si sviluppano su due piani, il piano inferiore molto più permeabile, quindi con una zona più pubblica, con negozi, bar, e lo sviluppo poi sul fiume, sulla passeggiata dell'Isarco, con un grande anfiteatro per eventi all'aperto. Il tutto poi, la zona superiore invece con spazi più dedicati alla musica, quindi sale di registrazione, sale per le prove, gli uffici per l'organizzazione dei vari eventi, culminato con una tettoia brisoleil sorretta da questi pilastrini di acciaio colorati che possono appunto creare grande, grande attrattività anche semplicemente visiva. E quindi magari richiamare anche Lady Gaga all'interno del nostro incubatore. Il terzo intervento è quello del distretto enogastronomico, non abbiamo scelto di farlo qua per caso, ma perché andava nella zona di Varese tra Casanova e Firmia, ma perché andava in relazione proprio con la campagna. Questo perché abbiamo voluto che nel progetto, pur dovendo mantenere una vocazione di grande richiamo, doveva presentare punti dove la campagna entra nel progetto stesso, quindi la creazione di orti urbani che andassero a integrarsi con il costruito, zona con dei vigneti anche per la didattica scolastica e sempre orti urbani per le residenze circostanti. Il progetto si sviluppa in maniera più puntuale rispetto agli altri. Abbiamo intorno a una grande piazza pubblica lo sviluppo di tre volumi ad altezza diversa, riservati soprattutto a quelle che è la ricerca enogastronomica, quindi con zone anche di ristoro dedicate, tematiche al biologico, alla carne, quindi cose anche molto diverse, quindi ristoranti dove può essere anche il cittadino attratto ad andare, zone di esposizione per i vari viticoltori della zona che hanno delle bellissime, che hanno dei bellissimi anche aziende produttive, come sappiamo soprattutto nella Val Venosta, fatti da architetti anche molto interessanti, però che hanno la possibilità qua durante tutto l'arco dell'anno di esporre e di proporre la vendita dei propri prodotti. Nella parte invece est si svilupperebbe una zona di mercato dove appunto si può vendere i prodotti della terra prodotti lì in loco, oppure altri prodotti regionali, e in più la presenza di zone più residenziali legate a delle residenze mi sfugge la parola, scusate. Temporanee, esattamente. Scusate, delle residenze temporanee per i vari eventi che si andrebbero a seguire nella zona. E questa qua è l'immagine del mercato. Ultimo, la cittadella dello studente, inserita nel quartiere di Oltrisarco, con il compito di ospitare un grande convito universitario, ma anche un centro per il design. Quindi, essendo il design una grande qualità della facoltà di Bolzano, dell'Università di Bolzano, un centro che potesse quindi avere un richiamo, oltre per gli studenti della facoltà, anche del turista, quindi lavoratori del settore, quindi con l'inserimento di un museo e di zone didattiche per il design. In questo caso l'edificio è un edificio di nuovo monolitico a corte, che però prende la leggerezza grazie alla differenziazione del materiale. Nel primo livello quello più permeabile, ha vocazione più pubblica, quindi negozi, zone di ristoro, anche qua, bar, una seconda che si affaccia poi sul verde e in continuazione col Parco Mignone, una seconda parte dedicata, un secondo livello dedicato più al museo del design, alla parte di ricerca sul design, e gli ultimi tre livelli dedicate al convitto universitario, con la parte vetrata grande dedicata agli spazi collettivi, quindi la grande mensa, zone di studio, zone relax, biblioteca, e la parte superiore con i dormitori, quindi le varie stanze. Stanze che possono essere singole o doppie, con un totale di 130 posti letto. Questo poi è molto specifico. E qua vediamo un esempio dell'interno del museo. Ecco dunque che, per finire, per concludere, abbiamo voluto creare anche la cartina, che si trova sempre all'interno delle cartine Lonely Planet, dove abbiamo inserito però anche i nostri interventi. Quindi se qualcuno nel futuro verrà a Bolzano, potrà trovare, oltre a tutti i monumenti e i musei presenti, anche i nostri distretti. Quindi abbiamo la Casa dell'Eno insieme al Palazzo Mercantile, al Museo di Scienze Naturali, il Centro del Design Studentesco insieme alla Fiera, all'Eurac, il Teatro di Eventi, quindi il Teatro Comunale, le Cucine Musicali, il Teatro Cristallo, il Distretto Non Gastronomico. Quindi è anche una proposta poi per il turista che viene a visitarlo. E per finire, in maniera anche ironica, perché sennò diventava poi anche molto molto serio, troppo serio il tutto, abbiamo voluto integrare quelle che sono le nostre proposte insieme con quelle che sono questi stereotipi che la gente ha della città di Bolzano, e che sarebbe bello riuscire ad integrare senza scordarci delle une e favorendo anche le altre. Quindi una piccola provocazione, ha divertito tutti quando abbiamo fatto la presentazione. Questo è quanto, spero di non essere stato troppo prolisso e spero che sia capito tutto, comunque la maggior parte di quello che è stato presentato. Se avete domande, volentieri. No, prego, può partire lei. Tu? Beh, mi sembra molto carino il lavoro che avete fatto. È acceso? Non so, sì, adesso. Mi sembra un approccio molto interessante, no? Si occupa della trasformazione. Mi sembra che è molto bello che gli studenti dell'Università di Architettura si occupino di tutto il territorio, non solo di una parte, come succedeva una volta che si occupava solo di un edificio o di una cosa sola, no? Cioè la cultura italiana ha introdotto il concetto del territorio, il rapporto tra architettura e territorio, che è molto importante dal punto di vista dell'architettura della nostra città. E la riflessione che gli studenti hanno fatto non è una riflessione leggera, è una riflessione ponderata, viene da lontano, ha dei contenuti di lettura molto approfonditi. Fa vedere che comunque la costruzione, il processo di crescita di una città è un processo molto complesso. Per leggerlo ha bisogno di una scientificità di approccio, non si può affrontare un singolo problema, un singolo pezzetto, bisogna avere in testa tutta la città. E questo lavoro quindi di Werner parte da un'analisi molto precisa, molto mirata, molto sottile della morfologia della città, cioè della forma della città, legge con cura tutti gli aspetti e le tipologie edilizie, perché vi siete permessi di guardare densità, eccetera, quindi è una lettura formale molto precisa, perché poi da questa lettura formale precisa si possono definire delle strategie di intervento, se no le strategie di intervento non possono partire da nessun contenuto, sono arbitrarie e inesistenti. E poi ancora un'altra qualità è che questa cosa è trasformata in progetti. Anche questo è fondamentale, perché noi siamo architetti e la cosa che ci piace di più è costruire. L'obiettivo bello e interessante è che naturalmente si passa da un concetto di crescita indifferenziata tipica dell'espansione urbanistica del dopoguerra, invece ad un concetto di attenzione sull'uso del territorio e quindi a guardare la città costruita, a vedere il suo disegno, a vedere una ricucitura dei suoi spazi, ad una interpretazione dei tessuti esistenti, e questo l'avete fatto in tutti i singoli progetti di cui poi avete fatto le analisi più approfondite. L'obiettivo di sparpagliare, di diffondere questi nuovi luoghi identitari, come voi li avete chiamati, in tutta la città, attraverso sia edifici ma anche spazi liberi, perché l'architettura non è fatta solo di una costruzione ma è fatta anche di uno spazio vuoto che gli sta intorno. Questa funzione di incubatore, i culturali arricchiti di funzioni e di letture economiche della città sono molto importanti. Voi siete tutti molto giovani, per cui forse ve lo dico, Giancarlo De Carlo, che era uno dei più grandi maestri dell'architettura del dopoguerra, aveva già immaginato questo superamento tra architettura urbanistica, tra questi vecchi piani di zonizzazione classici e invece il desiderio di architettura, e proprio nel piano di Rimini, nel suo rivoluzionario piano di Rimini, aveva immaginato questi, lui li aveva chiamati condensatori, e avevano proprio questa funzione di portare vitalità dentro la città e di superare questo rapporto sbagliato che fino allora c'era tra architettura urbanistica. Quindi quella idea sua ancora di allora è ancora valida oggi, no? E quindi è molto importante che voi, dopo la lettura e dopo la definizione di questi obiettivi strategici, abbiate voluto anche misurarvi con l'architettura, con dei progetti veri, e anche qui con una filosofia molto condivisibile e molto attuale, cioè non c'è una città senza architettura, quindi è inutile fare grandi piani. Anche tutti questi discorsi che noi facciamo oggi sui master plan e su queste interpretazioni di lungo periodo lasciano poco spazio, poi sono poco comprensibili, non riescono a definire niente. La città si costruisce con dei pezzi di architettura che definiscono ambienti piacevoli o ambienti spiacevoli. La diffusione sul territorio che avete fatto degli incubatori è anche molto interessante, no? Sono sparpagliati proprio nel territorio e in quelle parti di città dove c'è più bisogno, no? Di identità, dove c'è più bisogno che la gente trovi uno spazio dove ritrovarsi, andare e sentirsi bene, no? Quindi via Novacella è uno spazio morto, oltre Isarco là dietro che c'è bisogno di ricucire dei pezzi tutti sbrandellati, la zona industriale che è un posto inaccessibile e invivibile, e via Resia che mette insieme proprio questi tre ultimi pezzi di città costruita, che sono Orto e Semulaun, Casanova e Firmiano. Quindi il processo di lettura della città, il processo di definizione degli obiettivi e le ipotesi di architettura stanno tutto in un discorso raffinato, che però spiega e interpreta quello che è oggi in questo momento la cultura architettonica e quella urbanistica, che vivono un momento molto difficile. Fino a poco tempo fa gran parte delle strutture pubbliche erano oggetto di pianificazione da parte delle amministrazioni, oggi per mancanza di soldi eccetera non ci sono più questi soldi, queste potenzialità, però quello che conta è che chi studia, chi ha una professionalità, eccetera, abbia ancora le idee, i sogni da poter esprimere e che questi sogni siano ancora portati in evidenza, perché senza questi non possiamo più vivere. Quindi grazie che avete fatto questo lavoro, e siccome dentro questo lavoro c'è anche una grossa fetta di entusiasmo che si legge in questa grafia così accattivante, eccetera, dico che questo è proprio un bel lavoro e complimenti. Grazie. Se ci sono domande, altrimenti abbiamo finito. Allora, ti ringraziamo della grazie a voi. Cortese disponibilità di aver presentato questo lavoro, e speriamo di rivederci con altri argomenti, con altre tematiche. Grazie a tutti voi di essere venuti. Grazie. Grazie mille.